Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fu la mia famiglia ad aiutarmi a ricominciare tutto da capo. Spesso mi chiedevo se si rendevano conto della mia difficile condizione. Ecco, forse non erano in grado, ma istintivamente capivano che potevano e dovevano farmi sentire sempre utile, indispensabile, farmi sentire viva. Mi chiamo Vino Martinelli, ho 77 anni, sono sposata, ho 3 figli e 3 nipoti. Che è inutile far finta di niente, cioè è inutile far finta che tutte le puntate siano uguali e che ci piacciono allo stesso modo. Fate una prova, chiedete a un professore o a un maestro, comunque qualcuno che abbia degli allievi, ma secondo me anche a un genitore, però i genitori sono un altro paio di maniche. Chiedete a un professore se tra i suoi studenti non aveva e non ha mai avuto uno studente che preferiva. Uno studente preferito. È ovvio che ce l'ha. Poi magari non lo dice apertamente e magari non la mette nemmeno a se stesso. Però succede naturalmente che ci sono delle caratteristiche che probabilmente nemmeno noi conosciamo in alcune persone e in alcune cose che forse ci assomigliano un po' di più o forse semplicemente vorremmo avere e non abbiamo e quindi ci rendono quella persona o quella cosa preferita. È inutile far finta che la puntata di oggi, cioè è inutile che io faccia finta, che la puntata di oggi, 11 gennaio 2012, sia al momento la mia puntata preferita. Perché è una puntata che racconta un episodio e racconta una vita, come spesso succede, lo fa in maniera molto profonda, ma lo fa anche in maniera molto semplice e lineare. Lo fanno le parole di Vilma nel racconto che ci ha scritto, ma anche nel suo modo di raccontarlo, e la sentiremo più tardi, visto che l'ho già sentita ieri, quando la sentiremo in diretta. 349-238-6666. Oggi si parla di affidarsi a qualcosa o a qualcuno. Lo facciamo perché il racconto di Vilma parla di una persona che si affida tutti i giorni a qualcosa o a qualcuno. Vilma è cieca da 33 anni, ne ha 77, e quindi mi raccontava lei che i ciechi devono per forza affidarsi a una persona che gli sta vicino, a un cane, a un bastone bianco, e fidarsi del fatto che quella cosa, quella persona, quell'animale la guideranno da qualche parte. Questa è una cosa che probabilmente chi vede è meno abituato a fare, quella di affidarsi a qualcosa. Se però avete voglia di raccontarlo al 349-238-6666, la volta in cui vi siete completamente affidati a qualcosa, a qualcuno, oggi è la puntata per voi. Vi faccio qualche esempio. Maurizio, già da non vedente nel cuore mi sono affidato a una donna per 9 anni e ora ciccia, dice Maurizio. Credo che sia abbastanza chiaro il messaggio. E poi Marco dice, racconta un episodio: tra le tante possibilità di volontariato internazionale, quando ero giovane ho partecipato a un corso di formazione delle Peace Brigade International, che vuol dire Brigate di Pace Internazionale, credo. È un'associazione che fa attività di accompagnamento e protezione non violenta di attivisti per i diritti umani e comunità indigene in pericolo di vita, soprattutto in America Latina. Wow, sono 3 salti mortali di pace in questa associazione. E un'attività era quella di percorrere a piedi un sentiero difficoltoso, bendati e guidati soltanto dalla voce di un altro volontario. Ovviamente solo un gioco, ma istruttivo, e lo ricordo ancora. L'obiettivo era affidarsi completamente a qualcuno. 349-238-6666. C'è un'altra cosa che voglio raccontarvi prima di raccontarvi la storia di Vilma, ed è che quando ho letto questo racconto, questo è stato uno di quei racconti, e capirete il perché, che non ha solo smosso qualcosa, non mi ha solo fatto pensare banalmente se mi trovassi io in quella situazione, ma mi ha proprio fatto fare una cosa. La cosa che mi ha fatto fare è andare all'Istituto dei Ciechi di Milano e fare questo percorso che si chiama Dialogo nel Buio, di cui vi racconterò meglio più tardi. Se vi capita di venire a Milano e se vi capita di prenotarlo, potete farlo su internet, e ve lo consiglio vivamente. Prima ancora però di cominciare, io volevo leggervi una mail che ci ha mandato la persona che di fatto ci ha aiutato ad avere un contatto con Vilma. Si chiama Daniele Rigoldi ed è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Como. Grazie a lui, credo di fatto, Margherita, correggimi se sbaglio, credo che lui abbia scritto la mail, giusto? Il racconto per Vilma, ed è la persona con cui noi siamo rimasti in contatto. Quindi, oltre a ringraziarlo, io vorrei leggere un paio di cose che lui ci ha scritto e che non sono così immediate quando si pensa ai ciechi. Lui dice: i ciechi vivono il loro limite come naturale, mentre quello rischia di diventare un limite sociale. Spesso i ciechi sono persone che costruiscono la propria normalità su quattro sensi, e non vi immaginate quanto ci stia in quattro sensi. Giorgio Rigato, che è un analista informatico, dice: non devi aspettarti che il mondo si regoli su di te, devi spostare il limite tra quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Puoi rischiare di scoprire che quel limite è più ampio di quel che sembrava. E poi dice ancora: il loro handicap, dicono i sondaggi, tra tutti è ancora quello che inquieta di più le persone, cioè la cecità è quello che spaventa di più. La cecità fa paura a chi non ce l'ha, e ne fa tanto di più quando non sa stare al suo posto. E il posto dei ciechi qual è? Mi scrive Daniele: non siamo una società crudele, non è tendere la mano all'angolo della strada, è un lavoro da centralinista o da un massaggiatore, ma basta lì. I ciechi che puntano un po' più in alto, i ciechi che non fanno i ciechi, sanno cosa significa sentirsi trattati da presuntuosi, pretenziosi e perfino arroganti. E poi un'ultima cosa dice: a proposito delle esperienze al buio come dialogo nel buio, e qui diciamo lo dice probabilmente a me anche, o cene da aperitivi al buio, vorrei dire una cosa: essere ciechi per un'ora ti dà la sensazione che il cieco sia un incapace totale, essere ciechi da sempre o da anni ti dà il tempo di organizzarti la vita. Io ringrazio Daniele quindi per due motivi: per questa mail e per averci aiutato a fare questa puntata insieme a Vilma. 349-238-6666, ripeto, se avete voglia di raccontare la volta in cui in qualche modo vi siete completamente affidati a qualcuno. Questa invece è la storia di Vilma. Quella mattina di fine agosto eravamo andati in spiaggia abbastanza presto e io, seduta sulla sabbia in riva al mare, guardavo davanti a me, lontano, verso l'orizzonte. Non ero in grado di distinguere nulla, poiché da anni tutto mi appare agli occhi come sciolto in una liquidità. Eppure, poco dopo che avevo avuto la sensazione che tutta la natura intorno a me si illuminasse, mentre l'aria era percorsa da un'ondata di calore e io venivo improvvisamente investita dai raggi del sole che nasceva dal mare con tutta la sua gloria, e da quell'invisibile orizzonte il pensiero scivolò ai molti orizzonti della mia vita, quelli sognati, quelli raggiunti e quelli abbandonati, incominciando da quando ero bambina. Il mio orizzonte era racchiuso fra la famiglia, le compagne di gioco, la scuola. Poi, nei primi anni dell'adolescenza, il mio orizzonte si era aperto: la scelta dell'indirizzo scolastico, il piacere di apprendere nozioni nuove, la complicità con l'amica del cuore, molto più brava di me, più matura, dalla quale mi sentivo protetta. Il ricordo più forte che mi è rimasto è stato quando erano gli anni in cui erano sfollate anche le scuole. Io con le mie compagne dovevamo recarci in montagna e abbiamo assistito a praticamente un mitragliamento a un treno. Finché una grave malattia mi aveva costretta 3 mesi in ospedale, poi altrettanti mesi di convalescenza, mentre l'anno scolastico scivolava via e le compagne di classe venivano promosse al penultimo anno di liceo. Fu allora che decisi che avrei lasciato la scuola per dedicarmi privatamente agli studi musicali che coltivavo già da anni. E non sapevo che con questa scelta il mio orizzonte si restringeva inevitabilmente. Circa 2 anni dopo, in crisi ormai da tempo, parlai a mio padre e gli dissi che non avevo le capacità che credevo di poter raggiungere con la forza di volontà e che avrei in qualche modo ripreso gli studi. «Mi dispiace per te», fu la sua risposta, senza nessun altro commento. Per me però fu una liberazione, come uscire da un incubo. Il giorno seguente appesi al chiodo il violino che non avrei mai più preso in mano. Mi resi conto che il mio orizzonte si era rischiarato, era pieno di nuove promesse, di obiettivi alla mia portata. E allora ripresi gli studi e qualche anno dopo incominciai ad insegnare. Nell'ambito dell'insegnamento avevo ritrovato le compagne di liceo e stretto nuove amicizie, tra le quali quella con un giovane che sarebbe diventato mio marito. Insieme vivevamo sereni con i nostri 3 figli. E la nostra vita era scandita dagli impegni di lavoro, dai doveri familiari, da tanti altri interessi, tanto che non avevamo tempo di prestare attenzione a quel disturbo agli occhi che era comparso improvvisamente. Quando corsi dal grande chirurgo, tutto era già compromesso. E dopo un intervento mi ritrovai inaspettatamente cieca. Ma forse quello che è rimasto più deluso è stato il professore, che si è reso conto che non vedevo niente perché il mio sguardo era fermo. Fu la mia famiglia ad aiutarmi a ricominciare tutto da capo. Mio marito mi ripeteva che per lui non era cambiato nulla e i miei 3 figli continuavano a coinvolgermi e a chiedere il mio aiuto ogni volta che potevo essere utile. Spesso mi chiedevano se si rendevano conto della mia difficile condizione. Forse no, forse non erano in grado, però istintivamente capivano che potevano e che dovevano farmi sentire sempre utile, indispensabile, farmi sentire viva. Alcuni anni dopo, quando riuscii a superare tante remore, mi decisi a prendere contatto con l'Unione Italiana Ciechi e in breve tempo proposi di organizzare corsi di autonomia personale, domestica, di firma, mobilità e orientamento e anche di informatica. Siamo non pochi lungo questo cammino verso una maggiore autonomia e affrontandolo insieme forse sarà meno tortuoso. Ho letto il racconto di Vilma la scorsa settimana. Questa è una di quelle storie che più di altre, raccontando un pezzo di vita, la raccontano tutta. È sufficiente un episodio come quello che lei racconta in poche righe per capire chi è Vilma. La cosa che mi ha spiazzato di più, però, è che lei, l'episodio cardine della storia, quello più sconvolgente, lo liquida davvero con pochissime parole. E lo fa quando dice: quando corsi dal grande chirurgo, tutto era già compromesso. E dopo un intervento mi ritrovai inaspettatamente cieca. Lo tratta in maniera quasi marginale, al punto che ho dovuto rileggerlo per essere sicuro che lei fosse diventata veramente cieca. Il racconto era molto più lungo di quello che vi ho letto e diceva altre cose, dava altri dettagli della sua vita, prima e dopo quel momento così drammatico. E io, nella mia casa, da solo, mentre lo leggevo, ho pensato che quella sensazione doveva essere insopportabile, cioè quella di smettere di avere la percezione del mondo attraverso gli occhi. E mi sono ricordato di una cosa che a Milano c'è da qualche anno, di cui mi avevano parlato amici e anche parenti, e che avevo sempre avuto la tentazione di fare. E allora il giorno dopo sono uscito dalla radio, dopo il programma sono andato in via Vivaio, nel centro di Milano, sono entrato all'Istituto dei Ciechi e ho fatto quel percorso che si chiama Dialogo nel Buio. Dialogo nel buio è una mostra in cui si entra e ci si ritrova nel buio più totale. Lì si viene guidati da una persona non vedente attraverso stanze e luoghi in cui mettere alla prova tutti i sensi tranne la vista. Io ci ero arrivato con tutte le buone intenzioni, ma ammetto che l'impatto è stato traumatico. Entro in una stanza con altre 7 persone. Una signora ci dice che dentro troveremo una guida che ci dirà come comportarci. Ci fanno togliere qualsiasi cosa possa riflettere o emanare luce: orologi, occhiali, catenine. Entriamo e siamo al buio. Anzi no, buio non è il termine esatto. Siamo nel nero. Un nero come in natura non si vede. Perché, le stelle risplendono, perché in città c'è sempre qualche luce. È un nero artificiale, profondissimo. Sono totalmente perso. Non so cosa guardare perché non c'è niente da guardare. Non si vede niente. È come se il nero ti si aggrappasse addosso e ti soffocasse. Un paio di persone del gruppo cedono immediatamente in preda al panico ed escono. Poi finalmente sento una voce. È una voce femminile. È calda. Calma e amichevole. Si presenta come Ilaria. è una non vedente, ci dice che ci guiderà nel percorso. Ci fa dire i nostri nomi uno ad uno e se li ricorda tutti, subito. Poi ci fa mettere in cerchio e ci dice di seguirla. Sì, a seguirla dove però? Non si vede niente, non c'è niente. Faccio un paio di respiri profondi e cerco di calmarmi. Ilaria mi chiama e percepisco che sente la mia apprensione. Tocco le pareti, capisco che c'è un passaggio. Ci entro. Lei continua a chiamarci e noi la seguiamo. Ci porta attraverso ambienti diversi. Ora siamo in un prato. Sento l'odore dell'erba fresca, forte come non l'ho mai sentito. Poi un ruscello. Poi un mercato con il frastuono della strada, delle bancarelle. Con le mani tocco la frutta e la verdura al buio. Sento la consistenza di una mela, una pesca, credo, e quella che immagino sia dell'insalata. Poi finiamo in un bar, un vero e proprio bar, solo nel nero, più nero. Ci sono i tavolini, c'è un cameriere, ci sono i cocktail. Facciamo un aperitivo al buio. Io mi rovescio del succo di pesca sui pantaloni, ma ormai mi sembra normale usare solo le mani, il naso e le orecchie. Alla fine l'aria ci saluta e ci fa uscire. Fuori è sera, ma la luce è abbagliante. Lo spazio intorno mi sembra immenso. La mia faccia vista nel riflesso della porta a vetri è quella di un miracolato. Ilaria, invece, non saprò mai che faccia aveva. You caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. We all make mistakes, we do. È inutile negarlo. È inutile negarlo che ci sono storie che raccontano più di altre. Questo lo avrete capito semplicemente sentendo il racconto che ho fatto, il racconto di Vilma, leggendo il suo racconto che ci è arrivato e per il quale tengo a ringraziare ancora Daniele Rigoldi, che è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Como, che è stato ha fatto da tramite tra noi e Vilma e tra Vilma e noi. La storia di Vilma è indubbiamente una delle storie più toccanti e anche più emotivamente coinvolgenti che ci sono arrivate, inutile dirlo. E quindi a maggior ragione sono ancora più contento di sentirla, di averla al telefono in questo momento. Pronto Vilma? Pronto, sono qui. Ciao Vilma. Dimmi Matteo. Grazie, innanzitutto grazie mille per la tua storia, Vilma, e grazie per essere qui al telefono adesso. Tu sei diventata cieca, si può dire cieca, giusto? O deve essere per forza non vedente? No, cieca, cieca assoluta. Sei diventata cieca assoluta da quanti anni? Dunque, sono diventata cieca assoluta a 44 anni, perciò sono 33 anni che sono cieca assoluta. Perché adesso ne hai 77? Sì. Beh, guarda, dalla voce riporti benissimo però, Vilma. Meno male, almeno la voce che regge. Senti, invece una cosa che volevo chiederti, che riguarda il fatto che appunto i ciechi sono privi di uno dei cinque sensi, giusto? Quindi ti rimangono di fatto tutti e quattro gli altri, a parte qualche piccolo problema che tu hai anche con l'udito, mi dicevi prima. Però nel momento in cui una persona come te, a 44 anni, si trova cieca assoluta, qual è il senso che viene sviluppato per prima rispetto agli altri quattro? Generalmente quello che si sviluppa è l'udito proprio, comunque anche il tatto, perché ci abituiamo a usare molto anche le mani, per cui con le mani riusciamo a distinguere i materiali. Dei tuoi studi musicali, di quelli che hai fatto in gioventù, ti è rimasto qualcosa? Suoni ancora oppure semplicemente ti piace ascoltare musica? Io ero già sposata, perciò donna, insomma, avevo tre figli, sì. Io continuo a cucinare e direi anche piuttosto bene, non ho paura del fuoco e ho insegnato a tanti dei nostri giovani. Senti Vilma, invece un'altra cosa che mi incuriosisce molto è del mondo precedente, prima della cecità, tu te lo ricordi con precisione oppure no? Cioè, quando vai in un luogo, ad esempio, in cui eri stata, quando ci vedevi, vince il ricordo che avevi o la sensazione che hai adesso? Ma guarda, fino direi a 2 anni fa, a me, ecco, direi forse si è esercitata molto la memoria. Sì. Per cui io ricordo molto bene anche i posti dove, la zona dove vivo, i posti che ho, dove ho vissuto. Questo si è sviluppato anche perché ho imparato l'uso del bastone bianco, perché ti dà la possibilità di muoverti senza chiedere troppi aiuti. Vilma, infatti l'ultima domanda che io volevo farti, e poi ti ringrazio e ti lascio, è nella mail che ci ha mandato Daniele Rigoldi, che è stato appunto tramite tra te e noi, lui dice il posto dei ciechi, si fa una domanda e la fa in realtà a noi: qual è il posto dei ciechi? Il posto dei ciechi e delle persone invece vedenti non è tendere la mano all'angolo della strada, e fare qualcosa di più, lui dice. Ecco, che cosa può fare una persona che ci vede bene per una persona che invece non ci vede, Vilma? Dovrebbe conoscere un po', conoscerci meglio e rendersi conto che una persona che non vede però ha tutte le altre capacità. Per cui noi spesso restiamo un po' in difficoltà e delusi, perché incontrando anche il conoscente di famiglia, e se noi siamo accompagnati, quasi inevitabilmente chi ci incontra si mette a parlare con il nostro accompagnatore. Ah, come se non ci foste. Ecco, perché certe volte siamo a costo di mettersi a parlare col cane, nel senso che forse sì, il nostro sguardo così spento crea qualche problema in chi ci rivolge la parola. Vilma, grazie mille per le tue parole che hai scritto e per le parole che ci hai raccontato. Io ti saluto, ti faccio in bocca al lupo per tutto e spero di risentirti magari in un'altra occasione. Grazie a tutti voi. Grazie. Voi siete qui. E ci sono qui sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, 2 illustrazioni oggi. Sono entrambe molto belle. Una è di Teresa Niro e l'altra invece è di Valentina Cervasio. Che hanno già disegnato, forse è possibile che alcuni studenti abbiano fatti 2 illustrazioni per ciascuno. Sono, ripeto, belle entrambe. Una è molto semplice ed è molto narrativa, c'è una donna che guarda un orizzonte con un sole che tramonta, e invece l'altro è più non saprei, ma siamo sicuri che sia di oggi? Sì, ok. È talmente particolare che quasi potrebbe adattarsi forse a tutte le puntate di Voi siete qui. A proposito di artisti, di disegni e di forme d'arte, vorrei ringraziare Ilaria Gadens, che ci segnala sempre un sacco di cose tramite il suo profilo Facebook, brani musicali eccetera eccetera, che ci ha segnalato, e più tardi la carichiamo sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Cacci, io sono qui. È un video promozionale di quelle cose molto molto furbe che fanno alcune multinazionali molto molto furbe. In questo caso è una multinazionale, sì, vabbè, è un'azienda automobilistica che è svedese e che faceva aerei, per farvi capire. Tra l'altro è un video che dura 4 minuti. Puoi alzarmi per caso il volume di questo computer? Dovrebbe sentirsi qualcosa. È un video in cui c'è un artista che si chiama Esref Armagan, credo sia turco, così a giudicare dal nome, che è un pittore cieco. Questa casa automobilistica gli ha chiesto di disegnare un modello nuovo di automobile che usciva in quegli anni, credo sia dell'anno scorso questa cosa, 2009. Evidentemente era appena uscita questa automobile e loro gli hanno chiesto di disegnarla, e quindi nel video si vede come lui lavora, per cui tocca tutte le parti dell'automobile e poi le disegna guidando con entrambe le dita una matita e poi attaccando dei piccoli nastri che lui sente con le mani sulla tela, e disegnando sempre solo con le mani e usando la tempera. Andate a vederlo, andate sul profilo Facebook del programma e lo trovate. 349 238 6666. Si parla di affidarsi completamente a qualcosa o a qualcuno, e sono arrivati due messaggi tra gli altri, due persone cieche. Uno dice: sono cieco dalla nascita, insegno italiano e storia alle superiori. In Italia i professori ciechi sono più di 100. Quando sciamo o andiamo in tandem ci affidiamo alla guida, ma girando col bastone siamo affidati solo a noi e ai nostri quattro sensi. Il mio motto è ubi non visus possit mens, che attenzione riesco anche a tradurre grazie a quei 5 anni di latino al liceo, che si in questo modo: dove non si vede può la mente, giusto? Bonini fa così: ubi non visus possit mens, mens è il soggetto, possit, vabbè. Io non sono cieco, ho fatto quasi 2 trapianti di cornea, vedo solo con la però non è finito il messaggio, purtroppo l'SMS non è concluso, se puoi rimandarmelo. Dona e fai donare le cornee, questo è un messaggio per chi insomma abbia voglia di farlo. È arrivato un altro messaggio, prima di leggervi un pezzo, a proposito di affidarsi. Elisa: una volta scendendo da una parete di roccia, lui faceva sicurezza, stiamo parlando di arrampicata, lui faceva sicurezza, io sapevo di potermi fidare, ma lasciarmi andare all'indietro, parallela al terreno e perpendicolare alla parete, è stato difficilissimo. Non l'ho fatto più, ma ricordo il suo sguardo che diceva: stai tranquilla, ti tengo io. Oggi non poteva mancare un brano di un libro, non poteva mancare al punto che è quasi banale, però il brano è bellissimo e quindi voglio leggervelo lo stesso. Il libro si chiama Cecità, l'autore è José Saramago, che è un autore portoghese. Questo romanzo, al di fuori della metafora che vuole trasmettere, racconta di un piccolo paese, insomma di una comunità in cui improvvisamente serpeggia un male, che è la cecità, cioè le persone diventano cieche. È una malattia sconosciuta che viene quasi chiamata, che viene definita mal bianco, perché le persone che diventano cieche non vedono, non vedono nero, ma vedono bianco. È come una peste, è un morbo che divampa in questa comunità. Questo pezzo che sto per leggervi è il pezzo in cui la prima persona che diventa cieca nel romanzo si accorge che lo è appena diventato. Finalmente si accese il verde. Le macchine partirono bruscamente, ma si notò subito che non erano partite tutte quante. La prima della fila di mezzo è ferma. Deve esserci un problema meccanico. L'acceleratore rotto, la leva del cambio che si è bloccata. Il nuovo raggruppamento di pedoni, che si sta formando sui marciapiedi, vede il conducente dell'automobile immobilizzata sbracciarsi dietro il parabrezza. Alcuni conducenti sono già balzati fuori, disposti a spingere l'automobile in panne. Picchiano furiosamente sui finestrini chiusi. L'uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato, dall'altro. Si vede che urla qualcosa. Dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola. Non una, due. Infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno finalmente riesce ad aprire uno sportello. Le parole sono due e sono... sono cieco. Non lo si direbbe. Considerati come è possibile in questo momento appena di sfuggita, gli occhi dell'uomo sembrano sani. L'iride si presenta nitida, luminosa. La sclera bianca, compatta come porcellana. Ma le palpebre spalancate, la pelle raggrinzita del viso, le sopracciglia improvvisamente ribelli, il tutto, chiunque può verificarlo, è sconvolto dall'angoscia. Da un momento all'altro, quel che era visibile è scomparso dietro i suoi pugni chiusi. Come se l'uomo volesse trattenere all'interno del cervello l'ultima immagine colta, una luce rossa, rotonda, un semaforo. Sono cieco, ripeteva disperato mentre lo aiutavano a uscire dalla macchina. E le lacrime sgorgando resero più brillanti quegli occhi che lui diceva morti. Passerà, vedrà che passerà, a volte sono i nervi, disse una donna. Il cieco implorava: per favore qualcuno mi porti a casa. Poi si portò le mani agli occhi, le agitò. Niente, è come se stessi in mezzo a una nebbia, come se fossi caduto in un mare di latte. Ma la cecità non è così, disse l'altro. La cecità dicono sia nera. E invece no, diceva lui, io vedo tutto bianco. Balbettando come se la mancanza della vista gli avesse indebolito la memoria, il cieco diede un indirizzo e poi disse: grazie, non so come ringraziarla. E poi si stupì che fossero ancora fermi. «Scusi, perché non ci muoviamo?» domandò. «È rosso», rispose l'altro. «Ah», fece il cieco e ricominciò a piangere. Da quel momento in poi non avrebbe potuto più sapere quando il semaforo era rosso. Sono le 16.43, grazie a quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, a partire da Vilma che ha scritto questo racconto, per arrivare a Tiziano Bonini, a Margherita Hina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Vilma e parlava di buio e di cecità. Quella di domani è la storia di Paola e parla di friulani. La notte successiva arrivammo nella zona del disastro e ciò che vedemmo ci avrebbe segnato per il resto della nostra vita. Non so quanti, per quanti giorni, lavorammo senza mai fermarci. Avevamo il compito di installare le prime tende per i terremotati, per poi rifornire la popolazione di acqua con autobotti che riempivamo senza sosta da Udine fino alla nostra zona. Perdemmo il senso del tempo e della fatica.